Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci qui con un altro argomento da affrontare insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, argomento che negli ultimi giorni tra l'altro è stato anche al centro di cronache di un fatto drammatico nel Padovano. Parliamo del rapporto tra i ragazzi, gli adolescenti e internet. In pochi lo usano per studiare e sarebbe una grandissima opportunità, in tanti lo usano per giocare, per chattare, basterebbe questo, ma poi ci sono le foto hot e tutto quello che ci va dietro. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è così, i ragazzi, a parte questi casi clamorosi insomma di cui purtroppo abbiamo letto, però l'uso della rete non è al massimo delle sue potenzialità, ma per frivolezze. Bravo Mirko, purtroppo è così e questa volta dare i numeri, IMOIG, che è un'associazione che raggruppa praticamente le famiglie, quale qualche giorno fa questo movimento dei genitori hanno voluto presentare nella giornata voluta dalla Commissione Europea per la sicurezza dei giovani in rete una serie di dati che sono stati estrapolati da un'indagine rivolta a 40.000 studenti di età fino ai 20 anni, di 2 alle 6 ai 20 anni, e certamente quello che ne è emerso è un quadro veramente desolante, perché poi al di là di quelli che sono i numeri che ci troviamo a commentare, scopriamo che fondamentalmente internet non viene utilizzato per quell'attività che invece dovrebbe essere più diffusa tra i giovani, cioè quella di studiare, ma viene utilizzata per qualsiasi altra cosa e solamente uno su 10 fondamentalmente ha dichiarato che lo usa da studiare, che poi scoprendo l'indagine, andandola a sviscerare, vediamo che poi una minima parte di questi che la usano per studiare, verificare quelli che poi sono le fonti che danno le informazioni. Comunque questo è il quadro che hai detto. Ovviamente, come è emerso anche dai giorni scorsi, da questo rapporto ma anche da altri, spesso poi i più giovani sono poco consapevoli dell'uso, degli usi e degli abusi di internet, soprattutto sulle pubblicazioni di notizie o di fotografie che li riguardano direttamente. Guarda, poco tempo fa si affrontava proprio come il problema del bullismo oggi tende a essere ed essere sostituito ai cyberbullismo, cioè quello di praticamente diffamare i propri coetanei tramite la rete anziché farlo come una volta in maniera quasi diretta, dove almeno si riusciva anche più facilmente a individuare diciamo la fonte, ecco. Però tornando a quella che è l'indagine, scopriamo che veramente solamente il 14% dei ragazzi hanno conosciuto persone su internet e il 13% di questi, di età superiore ai 14 anni, chiaramente hanno scambiato addirittura il suo numero di cellulari con estranei. Per quanto riguarda lo studio, come abbiamo anticipato poco fa, solamente una persona su 10 ha dichiarato di utilizzare internet anche per studiare. Ma cos'è la cosa più preoccupante? Che la maggior parte di questi giovani cercano poi anche di cancellare le tracce quando utilizzano internet e quando lo stesso internet viene utilizzato per scambiare foto hard oppure navigare su siti pornografici. I ragazzi tendono anche veramente a cancellare tutte le tracce proprio per vanificare quelli che sono dei controlli molto blandi che le famiglie comunque dichiarano di non adottare nei confronti di questi ragazzi, di cui addirittura la stragrandissima maggioranza delle famiglie hanno dichiarato di non farlo perché non sono sufficientemente tecnologici, però sostanzialmente capisci che quindi con questi dati addirittura solo il 35% delle famiglie fanno un minimo di controllo, però con questi dati si dà quasi carta bianca a questi ragazzi, gli permette di fare quello che vogliono e tutti questi problemi che ci siamo detti certamente sfuggono, sfuggendo anche al controllo, vanno ad ampliarsi in maniera quasi spropositata, sproporzionata in quelli che sono anche i numeri poi. Ecco, e come abbiamo detto anche in altre occasioni, qui c'è un doppio percorso educativo da fare per i ragazzi ovviamente, ma anche per i genitori. Tu hai detto spesso i genitori sono meno tecnologici dei ragazzi, quindi meno avvezzi a, anche alle accortezze che si possono avere, o alle furbizie è meglio, diciamo, nel cancellare ad esempio la cronologia. Un doppio percorso. Certo, ma è anche osceno come da una parte, cioè osceno pensare come i genitori da una parte si dichiarano non tecnologici, o meglio solo il 35% fanno sostanzialmente dei timidi tentativi di controllo, però dall'altro scopriamo, e questa è una cosa che dico io che non è la sua indagine, come i genitori poi sono i primi a regalare lo smartphone ai ragazzi già a 14 anni, e come gli stessi sostanzialmente hanno un computer in camera e il 95% praticamente di connettersi tutti i giorni. Oggi, se vogliamo dare dei dati, per esempio, quali sono frutto di questa indagine? Un ragazzo su 5 decide di nascondere le tracce di quello che ha fatto eliminando la cronologia dal browser. L'11% dichiara di visitare addirittura siti per soli adulti. Il 28% ha fatto amicizia con estranei, consapevoli di trasgredire. Il 30% addirittura non usa la propria identità quando è collegato in chat, e 6 su 10 ha problemi di dichiarare di essersi divertito a ricevere o inviare foto o video hard, cosiddetto sexting. Parliamo di 6 su 10, quindi voglio dire, addirittura il 22,7% ha ricevuto da sconosciuti materiale imbarazzante. Quindi se questi dati ci rendiamo conto quanto sono enormi, certamente capisci che diventa paradossale come un ragazzo abbia il computer in camera, abbia lo smartphone in tasca tutto il giorno e sostanzialmente la famiglia se ne disinteressa. Io dico un'altra cosa, tempo fa, mi ricordo circa l'anno scorso, un po' meno l'Adico aveva fatto anche un'indagine su capire il fenomeno e il successo di questi social network, e fondamentalmente era emerso come per esempio i ragazzi lo utilizzano molto perché ricercano una popolarità che non hanno fuori da casa. Quindi sai, ricercando popolarità in un certo qual senso anche ci si espone di più, ci si mette in vetrina, si rimane più attratti, ma anche si attrae di più a quello che è un comportamento scorretto, anche quelli che sono i rischi di navigare in rete in maniera incauta. E sono temi sui quali ovviamente opportunamente noi siamo tornati con ulteriori sollecitazioni nei confronti soprattutto dei genitori ma anche dei ragazzi, perché entrambi per quanto tocca a loro stiano attenti. Non bisogna vietare ma insegnare a usare bene e con coscienza. Ringraziamo l'Adico, il presidente Carlo Garofolini, ci ritroviamo tra un paio di giorni per un altro argomento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.